fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua, è partita la diretta del sabato sera. Ci siamo con la nostra sposa che si chiama? Giada. Da dove vieni, Giada? Da Salizzole, provincia di Verona. E sei qua con tutte le amiche, vero? Siamo qua in pochi, siamo in pochissimi. Ti parti con la carrellata delle presentazioni? Allora, sono con Gisella, Ilaria, aspetta, Linda. Aspetta. Facciamole salutare, tu chiami Gisella e lei ti saluta, va bene? Ah, ok. Vai, vai. Gisella. Ciao. Ilaria. Ciao. Ciao. Linda. Ciao. Desiree. Ciao. Angela. Ciao. La mia futura cognata Sara. Ciao. Perfetto, e Giada, la sposa. Hai spento la luce, ti piace già questo stile di intimità, vero? Tutto, ha spento tutto, ragazzi. Perché giustamente c'era una che si stava spogliando prima. Che praticamente l'hai usata come appendino, la tua amica. Cioè... Un po' tutte si stanno passando tutto, comunque, ok. Ma mi hanno allestita loro così, quindi... Ah, l'avete allestita, non l'avete vestita, l'avete allestita. Sì, mi hanno allestita così con... Praticamente Giada la sposa allestita. Sì, mi hanno rapita e poi mi hanno indossato robe e quindi sono così adesso. Ah, perché tu non sapevi niente? No, sono venuta a prendere a casa e il mio futuro marito con il mio bimbo che è 22 anni. Che salutiamo tutte, vero? Salutiamo ciao, Kevin. Ciao. Sono andati via, mi hanno detto dopo veniamo a prenderti. Hanno suonato il campanello e c'erano loro. Mi hanno bendata e poi mi hanno vestita così. E tu non sapevi niente, cioè tu hai detto vanno via così e non ti aspettavi niente? Sì, in realtà ho trovato le cose molto strane, c'era la settimana, si sono detti cose strane, ho sentito discorsi strani, ok, però ho detto boh, sarà il caldo che magari inizia a dare un po' alla testa. E in realtà era tutto un uma uma per non farmi sapere niente. E ci sono riusciti, è venuto bene la sorpresa? Sì, sì, perché io non mi aspettavo assolutamente niente. Addirittura mi hanno dato un input ieri che mi sono trovata sotto casa un biglietto anonimo dicendo fatti trovare pronta per domani alle 20 luglio alle ore 17. Io ho detto ma sì, sarà uno scherzo qua che mi vogliono tenere impegnata, poi in realtà non si fa niente. E in realtà hanno suonato il campanello ed erano loro. Il biglietto anonimo è bellissimo, cioè, c'ha paura, tipo sembrava minaccioso, no? E quindi tu eri tranquilla in casa con le ciabatte, così? E loro, sì, in ciabatte, sì, tra l'altro, sì, ciabatte. Hanno beccato in ciabatte proprio. Ciabatte. Wow, un momento sexy incredibile. E voi l'avete allestita sul momento? Sì, sì. Chi è di voi che ha organizzato tutto? Voi due? E Sara. Ah, la futura cognata, giusto? Ok, e avete pensato di vestirla? Com'è che l'avete vestita? Che così la descriviamo per gli amici che sono in macchina in questo momento. Questa quella viene da sputare. Sposa curiosa. La sposa? Devo scrivere che cosa ho addosso? Vabbè, descriviamola, la descrivete? Ha una maglietta con un elenco di cose da fare durante la serata. E le ha fatte? Sì, le ha fatte tutte. Ha pienissimi voti. Ha pienissimi anche. Voti? Certo. Ma tipo bravissima. Anche, ballare sul tavolo, ha ballato? Sì, sì, sì, sì. Chiedere il numero di telefono di tre ragazzi. Sì, sì. Ah, tra l'altro, anche di più. Ah, sul palloncino anche l'hai scritto? Anche di più. Ah, perfetto, anche sui palloncini. Sì, ce l'ho scritto dappertutto. Tra l'altro la ragazza vuole sempre creare quel senso di intimità. È carichissima la vostra amica. Continua a spegnerci la luce. Ok, quindi ha chiesto i numeri, ha fatto tutto, no? Farsi offrire un drink, selfie con uno sconosciuto. Sì. Cantare a squarciagola, ha cantato a squarciagola? Certo. Cosa ha cantato a squarciagola? Come mai di Max Pezzali. E allora la facciamo di nuovo questa penitenza, va bene? Sì, certo. Attenzione, signori e signori, solo per gli ascoltatori in radio, Giada, come mai? Ah, io lo devo cantare? Giustamente, no? Sì, sì, sì. Se volete potete aiutarla, dai, se siete clementi, se no. Il tornello però. Vai Sara, tu che sei due brava. Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere. Sperando di sederti ancora qui. Dimmi come mai, ma chi sarai a fare questo a me? Notti intere ad aspettarti ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Brave, bravissime ragazze. Avete creato un subbuglio nei fan. C'era gente che si attaccava ai vetri proprio perché questo, cioè, avete visto? C'è, cioè, una roba, tanto riesce a bussare con i capezzoli questo ragazzo. Cioè, ha un potere incredibile. Fantastico, hai creato un subbuglio veramente. No, brave. Tra l'altro sembra di essere in un acquario, no? Un po' così, no? Arrivano i pesci, si appiccicano al vetro. Non senti niente, quindi fantastico. Sì, noi siamo insonorizzati fuori e sono strani però, eh. Vedi, tutta sta gente sembra in silenzio che si muove come dei pazzi in realtà. È vero, anche a noi capita quando siamo qua che li prendiamo tutti un po' in giro perché senza musica e vederli così sembra un mondo a parte, no? Un manicomio di musica, bello. Che cosa hai preso? Pensavo che ordinassi una pizza. L'ho vista. Ah, stai ballando col gingillino questo. Ti ha sedotta? Pensate che si sposa anche lui, eh? Oh, wow! Ciao! Hai visto che roba? Poi abbiamo un re, uno vestito da re che passa lì, così. Ce ne sono, ci sono dei personaggi, infatti abbiamo aperto una rubrica che si chiama Convento Quark, dove raccogliamo tutti i vari personaggi e facciamo proprio un documentario delle varie specie animali strane che ci sono. Ah, fantastico? Sì, vi è piaciuto il convento, ragazze? Tantissimo. Adesso vi faccio una domanda, ognuna deve dare una risposta. Convento perché? Perché? Attenzione, cioè, ne abbiamo una che è andata a prendere il latte. Perché c'è la musica, c'è la degrina. No, va bene, una risposta sola. Si mangia. Quella che del latte, vai. Perché è divertente e perché. Va bene. Così. Pensavi, convento perché? Perché ci diverte, una cosa diversa. Gliel'hai fregata. Convento perché? Perché si diverte, è una cosa diversa dal solito. Te l'ha fregata quella di prima però. Vabbè dai, condonata. Convento perché? Perché si mangia bene. Brava. Convento perché? Perché è una location completa. Questa qui se l'hai studiata adesso, sono qua la penultima. Adesso convento perché, Giada? Ovviamente ci ho festeggiato il mio nubilato. E quindi grandi ricordi, grandi momenti, giusto? Esattamente. In compagnia delle tue splendide amiche, simpaticissime. Esatto. Ma che bello. Anche se stasera, dopo che ho visto come mi hanno conciata e le cose che mi hanno fatto fare, ho detto, bene, però dai, alla fine amicizia è anche questo e sono davvero contenta e orgogliosa delle mie amiche che ho qua stasera. Brava Giada, le fate un applauso. Ah, grande Giada, grande. Ragazzi, vi terrei ore qua in radio, solo che i nostri 5 minuti per raccontare e raccontarsi sono già passati, sono già 8 minuti che stiamo parlando. Vi siete accorte? Eh? No. Merito di Giada. Allora, siccome a Giada piacerebbe lavorare in radio, insomma, un po' il suo sogno, vorrei che chiudessi te salutando tutti, va bene, Giada? Ok? Ci provo. Cari amici della radio, ora vi salutiamo dal convento e dall'addio nubilato di Giada, futura sposa di Alex. Questo è tutto e buona serata a tutti e noi procediamo con il nostro divertimento. Brava!